Vi ringrazio di essere con noi, le nostre iniziative sono aperte a tutti, chiaramente ci sono delle giornate dove c'è tanto giro, altre dove ce n'è meno, però il Centro Trevi e la Biblioteca Provinciale ci tiene a fare in modo che ogni giorno quasi ci sia un'occasione di incontro con gli autori, le autrici e i libri, perché questa è la nostra missione, quella di far conoscere, stimolare la curiosità, leggere, approfondire, soprattutto evitando e non incorrendo in false verità, visto che le fake news sono all'ordine del giorno, ma cercando sempre di approfondire dei temi e così avere delle notizie autorevoli, dove si possono ricostruire le matrici, eccetera. In questo ho due ospiti veramente preziosi che ringrazio questa sera e inizio da Paolo Mazzucato perché è una sono arrivato che prima. È arrivato per primo, solo per quello. Ma soprattutto è anche colui che ha suggerito e mi ha fatto conoscere questo grazie libro. E Matteo Zola appunto ha scritto Interno Panchin nel Caucaso dietro la trincea del fondamentalismo islamico e questo è il libro che abbiamo qui, con una vetrina di altre proposte sempre legate a questo tema. Ringrazio appunto allora anche il nostro autore che ci ha raggiunto, ascoltiamo con interesse il loro dialogo e spero di vedervi di nuovo presto anche presso altre iniziative come ho anticipato poco. Grazie e buona serata e grazie a voi e ringrazio veramente i nostri due ospiti per questa serata. Grazie allora Valeria, grazie Gian, che ci ospita. Allora, buonasera e benvenuto a Matteo Zola che ha scritto questo lavoro, che è un lavoro che ho conosciuto appunto grazie alla sua generosità e io vi dico sinceramente quando ho visto Interno Panchisi non ho capito interno, poi è stato al cinema e poi mi sono andato a documentare sulla parola Panchisi perché io credo di rappresentare molte persone completamente o quasi completamente a digiuno di cosa voglia dire questa zona geografica. Infatti io ho pensato che per iniziare, Matteo forse sei d'accordo con me, fosse importante avere una cartina per capire dove siamo, che forse è la prima cosa importante quando si parla di Oriente, Medio Oriente, Caucaso, Balcani, sono cose molto distanti tra di loro, è importante che ci situiamo e diciamo dove siamo e chiederei a Matteo Zola dove si svolgono le vicende di questo libro che è quasi una sorta di diario di una persona che partita da quelle terre se n'è andata per necessità e poi ritorna a vedere cosa è successo, cosa è rimasto della sua memoria di ragazzino. Però prima di tutto chiederei a Matteo, che queste zone invece le ha frequentate anche fisicamente, di dirci dove siamo. Dunque, se questa mappa, ecco, questa mappa è subito colpa mia, ma non facciamo il backup adesso, non me ne vorranno. Dunque, questa mappa ci aiuta fino a un certo punto, nel senso che il Panchisi è una minuscola valle che si trova al confine tra la Cecenia e la Georgia. La Georgia in questa mappa la troviamo, la Cecenia no. Questa mappa restituisce un apparente ordine. Sembra che il Caucaso sia un posto tranquillo, ordinato, ci sono tre paesi in fondo. L'Azerbaigian, la Georgia, l'Armenia e sopra la Russia. Cosa ci sarà di difficile da capire? Ecco, se i potenti mezzi che mi sono stati messi a disposizione mi soccorrono, vi faccio vedere, dovrebbe essere questa, perché ho appena messo una chiavetta, quindi penso sia qui. Vi faccio vedere, non è qui, sì è qui, ecco qua, vi faccio vedere dove si trova esattamente il Panchisi e perché il Caucaso non è un posto così semplice come sembra a prima vista. Allora, questa è esattamente la mappa per come è stata mostrata prima, anche se tagliata dal layout. Ecco, questa è invece la mappa del Caucaso per come è davvero. Cosa intendo dire per come è davvero? Per come... Così si vede tutto schermo e dovreste riuscire... Vabbè, niente, non riesco a farvela vedere più grande, almeno io sono abbastanza imbranato e vi ho già fatto perdere abbastanza tempo. Parentesi, scusatemi davvero, mi sono beccato il traffico di due città, Trento e Bolzano, un disastro. Comunque, qui vedete molti colori. Ecco, tutti questi colori sono gruppi etnolinguistici, cioè sono gruppi di popolazione che parlano una lingua specifica e completamente diversa dalle altre, cioè che non sono imparentate con le altre, d'accordo? Ci sono in Caucaso, il Caucaso viene chiamata la montagna delle lingue, apparentemente quattro paesi, che sono questi qua che abbiamo visto prima, ma in pratica parliamo di, per chi di voi è pratico di linguistica, cinque famiglie linguistiche. Dentro le famiglie linguistiche, ad esempio quella neolatina, ci sono, cioè, ad esempio quella indoeuropea, ci sono i gruppi linguistici, quella neolatina, quello slavo, quello germano, eccetera, eccetera. Ecco, lì abbiamo cinque gruppi linguistici, cinque famiglie linguistiche, 12 gruppi linguistici, ciascuno dentro diviso in altre lingue, e quattro grandi religioni: cristianesimo nelle sue varianti, islam nelle sue varianti, ebraismo e buddismo. Lì c'è tutto. È il posto più complesso etnicamente, etnoculturalmente, del nostro piccolo vecchio continente, anche se un po' periferico, e forse proprio per questo è così complesso. E allora lì dentro, in quel mosaico, in quel pasticcio, di cui, se volete, poi vi dico qualcosa in più, ma non so se avremo tempo, ecco, c'è quella lì. Quella lì è la valle del Panchisi, ecco. E io nella valle del Panchisi ci sono andato un paio di volte in periodi differenti. Perché? Un po' perché io vado in quei posti lì, e un po' perché ero attratto dal fatto che erano gli anni dell'ISIS. Adesso non se ne parla più, adesso ci sono altre guerre, altre cose che attirano la nostra attenzione, ma per molti anni si è parlato dell'ISIS, e questo ISIS spaventava molto, ed è stato anche, diciamo, una delle cause delle guerre in Medio Oriente, in Siria, in Iraq. Ebbene, uno dei leader dell'ISIS, così come buona parte dei quadri, dei vertici dell'organizzazione fondamentalista islamica che ha operato in Iraq e in Siria, provenivano da quella valle. Quello è un centro di reclutamento per Mujahideen, che a seconda delle guerre, l'ultima è stata quella fatta dall'ISIS in Siria e in Iraq, ma precedentemente per le guerre del Caucaso, che sono moltissime, o precedentemente ancora in Afghanistan, ecco, partivano per combattere questa jihad internazionale. Il Panchisi è un posto così. E perché ci sono andato? Ci sono andato perché, da bravo occidentale, ho detto vado là e faccio una bella, metto il mostro in prima pagina, faccio un bel reportage, un po' di quel. Sono andato lì e mi sono accorto che invece era tutto molto diverso. Era diverso perché mi sono trovato di fronte a una comunità, scusami se parlo tanto. No, va benissimo. Io mi sono trovato di fronte a una comunità che era la comunità dei Kist del Panchisi, cioè delle persone che vivono in questa valle, che si trovava attraversata da questo fiume in piena del fondamentalismo. Loro erano musulmani, sì, ma erano musulmani di una corrente molto tollerante, sincretica, che metteva insieme tanti elementi, sufista, mistica. Soprattutto le donne avevano un ruolo importante, poi se sarete curiosi ve ne parlo, vi faccio vedere qualche foto. Però, la zona è stata attraversata da una guerra terribile, da due guerre terribili, che in realtà sono una sola, le due guerre cecene. Le due guerre cecene hanno coinvolto la Cecenia, che è esattamente qui sopra, per, diciamo, una quindicina d'anni, più di 12 anni, no? E questa guerra cecena è stata una delle cause che ha portato all'arrivo del radicalismo islamico. Il radicalismo era diventato l'elemento, come dire, che motivava questi ceceni a combattere. E cosa c'entra il Panchisi? In Panchisi sono ceceni. Questi Kist del Panchisi sono ceceni. Non erano nella Cecenia vera e propria, quindi la guerra da loro non c'è stata, ma c'è stato tutto il resto. E il resto che cos'era? Soldi sauditi, che bisognava far arrivare lì, e da dove? Da qua. Armi, che bisognava far arrivare lì, nella Cecenia vera e propria, da dove? Da qua. Combattenti, che provenivano anche in larga misura proprio dalla valle, o che arrivavano da altre zone, addirittura dall'Afghanistan. Convergevano lì, attraversavano le montagne col disgelo, arrivavano dall'altra parte nella Cecenia vera e propria e riprendevano a combattere. Quando i russi, c'è stato un paio di volte che i russi hanno colpito veramente duro, i combattenti ceceni hanno dovuto ripiegare, e dove hanno ripiegato? Lì. Quindi entravano nelle case delle persone, prendevano possesso dei beni e delle proprietà, obbligavano i locali a fare quello che dicevano loro, e hanno portato dentro alla valle questa versione radicale dell'Islam, che però non è la loro, non è la loro di questa gente che vive qui. E quindi queste persone si sono trovate attraversate da una storia decisamente più grande di loro. E questo è giusto, è un bellissimo racconto che ci ha fatto Matteo, e che giustifica anche in qualche modo l'idea che la geografia non è veramente indifferente a quello che succede nella storia. Questa valle qua, perché è lì, proprio perché è lì, ha vissuto e vive tuttora le conseguenze di questa situazione, che però è antica, perché la valle del Panchisi è una valle anche isolata. Per arrivarci bisogna andarci, dice Matteo, non è che ci sono chissà quante possibilità di arrivarci, e ostilità della valle del Panchisi, ad esempio nei confronti della grande Russia, ancora prima che la Russia diventasse poi l'Unione Sovietica, è storica. C'è un mito, forse un nome, un nome importante che i bambini portavano con grande orgoglio nella valle del Panchisi, che sintetizza un po' tutto questo e che ci dice che questa storia è recente, perché se noi pensiamo a Beslan, forse l'idea di Beslan ce l'abbiamo ancora in testa, è un ricordo terrificante, non molto lontano nella nostra memoria, ma ancora prima di questa storia c'è un mito. Sì, i ceceni non combattono da oggi contro i russi. La Russia, ahimè anche questo in un certo senso è attuale, la Russia ha esteso i propri confini raggiungendo popolazioni e paesi periferici che non appartenevano alla sua cultura, tra questi il Caucaso. La penetrazione del Caucaso è stata raccontata divinamente da Tolstoi, per esempio, in Shasi Murat, che racconta proprio la conquista del Caucaso musulmano, dei ceceni, degli ingusci, di questi popoli qua, da parte dei russi, vi consiglio di leggerlo, e della resistenza di questi ceceni e di questi popoli caucasici delle montagne nei confronti dei russi. Una resistenza impari, ovviamente, ma favorita in un certo senso dal territorio. Questo è un territorio montuoso, il Caucaso in realtà sono due catene, il grande e il piccolo Caucaso. Il grande Caucaso è pieno di valli chiuse, che consentono quindi guerriglia, una lotta, e il primo a organizzare una vera e propria resistenza antirussa a metà 800 fu questo Imam Shamil, il nome di battesimo, diciamo così, non battesimo, la parola sbagliata, però essendo musulmano, però Imam Shamil, una figura religiosa. Perché i ceceni hanno questa caratteristica di non riconoscersi come nazione, ma di riconoscersi in clan, in confraternite, legate all'aspetto religioso, essendo abbracciando una corrente particolare dell'Islam, che è quella del sufismo, loro si riconoscono nell'appartenenza religiosa, ci sono due correnti principali, e poi nei gruppi familiari. Dopodiché c'è tutta una piramide, quindi poi nei villaggi, eccetera, eccetera. È un'organizzazione di tipo clanico, di conseguenza la costruzione di una nazione cecena è impossibile per loro, è culturalmente impossibile. Questo gli ha impedito di unirsi e combattere contro l'invasore russo quando questo è arrivato. L'Imam Shamil ci è riuscito, ma facendo perno sull'aspetto religioso. L'aspetto religioso quindi è fondamentale da quelle parti, cioè è l'appartenenza religiosa, è il motivo che ci aggrega ed è la ragione della lotta. Shamil è un nome, lì mi voleva portare, Shamil è un nome che ritorna spesso, è un nome eroico, è il nome del primo grande, sono storie che i bambini da quelle parti imparano da piccoli, gli vengono raccontate come delle leggende, ma che costituiscono poi l'identità di queste persone. E Shamil è il nome, ad esempio, di uno dei grandi, come definirli, guerriglieri, terroristi, criminali ceceni della storia recente, Shamil Basayev. Shamil Basayev, a voi non dirà nulla, è il signore che ha ordinato la strage a Beslan, che citava prima il collega, cioè una strage di bambini in una scuola, organizzata apposta il primo giorno di scuola, quando c'erano anche le famiglie, decine e decine di morti. Così come moltissimi altri attentati, qualcuno di voi forse ricorderà il tentato all'attentato al teatro Dubrovka di Mosca. I ceceni prendono il controllo del teatro, dentro c'è la gente, gli Spetsnaz, cioè le unità speciali russe, entrano, fanno la carneficina, muoiono anche i civili per uccidere poi 10-20 guerriglieri ceceni. Attentati alle metropolitane hanno fatto i ceceni a Mosca. Ecco, dietro a tutto questo c'era Shamil Basin e, semplificando, c'era la lotta per l'indipendenza cecena. Attenzione, un'indipendenza però fortemente venata ormai dall'elemento radicale islamico. E quindi non una lotta per l'indipendenza nazionale di uno stato laico, non più. La prima guerra cecena era l'indipendenza, era una lotta per l'indipendenza più laica. Ma la seconda guerra cecena era già penetrata dalle cose che vi ho detto prima e quindi non era più possibile. Si chiamava Shamil, anche lui, Shamil Basin. Shamil Basin aveva fatto tutte le guerre che si potevano fare prima di quella. Il Caucaso è un grande pasticcio, c'è una guerra ancora in corso adesso tra Armenia e Azerbaijan, non so se avete sentito parlare. Lui ha combattuto anche lì nel 1991, c'è stata una guerra, vedete questo pezzetto qua con la righetta, quella si chiama Abkhazia, è una regione della Georgia. Indipendente di fatto, perché i russi sono arrivati lì, l'hanno occupata, l'hanno staccata dalla Georgia, se la sono presa, e in Abkhazia c'è stata una guerra prima anni fa, e questo Basin ha combattuto anche lì, tutte le guerre che si potevano fare le ha fatte. Io a volte, per farmi capire, quella specie di Garibaldi cattivo, nel senso che ha fatto molte guerre, è un eroe per molti mondi, ma sono mondi che a noi non piacerebbe conoscere e che fatichiamo davvero a capire. Infatti questo libro non è che ci fa capire chi è il buono e il cattivo, ci fa capire che sulla testa del protagonista, che non ha nome, dico bene, esatto, non c'è un nome del protagonista che racconta questa storia, è passata questa vicenda e l'unica via di scampo che lui ha trovato è stata quella di scappare, perché in qualche modo si è sottratto, cioè non ha preso parte, non ha detto combatto per l'una parte o per l'altra, me ne vado, altrimenti sono costretto a imbracciare il fucile per qualcuno. E questa idea dello scappare per fuggire al fondamentalismo in realtà è una cosa sradicante per la questione che diceva Matteo sull'identità di queste persone, ma anche ci interroga molto sulla soluzione. Questo libro non ha una soluzione, è un pasticcio, ha detto per poco fa Matteo Zola, ed è difficile capire chi sta dalla parte giusta. Senz'altro il protagonista non si macchia di ingiustizie, però in qualche modo scappa, viene costretto a scappare. Lui, allevato come un figlio da una persona che lo accoglie, una donna, a un certo punto se ne va perché molti suoi amici, per la povertà che regna in queste zone, accettano il fondamentalismo. Uno dice: sono stufo di spaccare pietre come mio padre, accetto la proposta di andare a battagliare, a combattere per chi? Per la religione, per Allah. Sì, e la scelta è proprio questa, insomma, un personaggio che da giovane lascia la valle, ritorna dopo molti anni, il personaggio non è ben definito volutamente ed è un po' lo sguardo nostro dentro questa realtà. Tutto quello che è raccontato nel libro, luoghi, persone, è tutto verissimo. Persone che hanno letto il libro e sono poi andate in panchisi, perché ci sono dei pazzi che lo fanno, e hanno riconosciuto poi anche le persone, perché parliamo di una comunità di 15-20 mila dipendenti, insomma, quindi e i punti di riferimento di quella comunità poi sono sempre quelli. Detto questo, è un racconto, quindi è un'opera, diciamo così, di invenzione. Il personaggio, quindi l'escamotage, è quello di questo personaggio che si allontana e che poi ritorna e ritrova la valle, ma non la ritrova più perché è cambiata, e quindi c'è questo doppio, diciamo, doppia linea narrativa, ma è un racconto piuttosto breve, quindi non facciamo la grossa, ma insomma, dove c'è un passato e un presente in costante confronto e c'è sullo sfondo la vecchia e la nuova moschea, esatto, che convivono. Esatto, questa è la vecchia moschea. Non aspettatevi, come vedete, insomma, niente di eclatante, è una piccola moschea di campagna ed è la moschea tradizionale dove la comunità dei Kist, cioè dei ceceni del Panchisi, si trovava e seguiva la sua tradizione e le sue regole tradizionali. La moschea nuova per loro è un posto particolarmente è questa, La moschea nuova è più grande, è più bella, e fuori ci sono le Mercedes parcheggiate. Viene descritta anche nel libro la Mercedes. Perché fa proprio parte dell'esibizione della ricchezza e del potere. Noi siamo i nuovi, noi siamo i fondamentalisti, i salafiti. Noi siamo qua. Ragazzi cari, ma cosa volete fare voi nella vita? Andare a fare il pastore su in montagna o combattere per Allah? Magari di Allah non ve ne frega molto, ma della Mercedes sì. Della casa bella, nuova, dello schermo al plasma. Cioè, sì, irretiscono questi giovani con delle promesse di gloria ultraterrena se va male e di ricchezza terrena se va bene, perché i soldi questi salafiti li hanno, o comunque mostrano di averli, e in questo modo reclutano. Cioè, alla fine il fondamentalismo ha successo, ed è questo che a me ha colpito di questa piccola valle, no? Che mi ha permesso di vedere questo fenomeno di trasformazione di una comunità tradizionale in una comunità radicale. Perché si diventa fondamentalisti islamici? Perché si è pazzi? Forse, ma soprattutto perché si è poveri. Cioè, là dove c'è povertà ed emarginazione, e questa valle ne è un esempio eclatante, questo tipo di messaggio può avere successo in giovani che hanno desiderio di cambiare la propria vita. Voi direte, ma non potevano andare in città a lavorare? No, perché la valle del Panchisi si trova in Georgia. Fino al 2000, vorrei sbagliare, 16, insomma, fino a pochissimi anni fa, il governo georgiano non dava i documenti a queste persone. Non gli rilasciava la carta d'identità, non potevano lavorare, capite? E quindi restava ben poco da fare, ben poco da fare, se non rimanere chiusi in questa valle. I georgiani sono ortodossi, sono cristiani ortodossi, quindi state pure lì, non vi vogliamo, però poi questi sono i risultati. Sì, e quindi appunto, non solo la moschea, voi dovete pensare, quelli sono luoghi di una povertà insomma abbastanza evidente. Adesso io qua purtroppo non ho forse foto che lo restituiscono, ma comunque ecco, e anche se a noi non sembra chissà che cosa la Mercedes o la moschea col tetto nuovo, è un'esibizione di ricchezza per loro. Quello delle donne, vorrei che entrassimo dentro questo dhikr, che è una consuetudine legata alle cerimonie, insomma alle celebrazioni di cui adesso ci parlerà Matteo, passando per Selima, perché nel racconto interno Panchisi la figura di Selima è importante, aleggia, è un arco che sta dall'inizio alla fine della breve permanenza di questo protagonista nella sua valle natia. Sì, la Selima è una signora che non si chiama Selima, che mi ha ospitato quando io sono andato lì. Non ci sono alberghi, non ci sono, c'è una guest house per turisti, soprattutto per giornalisti americani che vanno a fare quello che ho detto, ma vado a farlo anch'io, il reportage, no? Dei mujahideen, eccetera. Poi, come vi spiegavo, ho trovato una cosa più interessante da mettere, che mostro da mettere in prima pagina, e io di questa guest house non ci sono andato. E mi ha ospitato una famiglia, sono stato lì da loro. Questa famiglia era composta, matriarca, diciamo, molto anziana, questa donna sulla quarantina con due figli, e non c'era un uomo, mancava un uomo. E nella società tradizionale dei Kist la figura maschile è comunque una figura prevalente rispetto a quella femminile, parliamo comunque di una società tradizionale. E però le donne hanno dei propri spazi e delle proprie funzioni, sia a livello sociale che religioso. Una delle cose che fanno le donne, e che in Panchisi fanno solo le donne, mentre la cecenia vera e propria fanno anche gli uomini, è lo zikr. Lo zikr è un atto devozionale, dirò scritto bene, è un atto devozionale. Queste donne si mettono in cerchio, ripetono delle formule religiose e ruotano, okay? Cantando. E questo dà una... Quando sei lì, so che detto così sembra poco, quando sei lì è qualcosa che senti, cioè dà delle vibrazioni, non saprei come dire, ed è molto, un atto mistico. Loro ruotano, e in questa rotazione c'è l'idea dell'ascesa, no? Dell'ascesa verso la divinità e quindi dell'avvicinarsi a Dio attraverso questo movimento rotatorio e questa ripetizione cantilenante di preghiere o comunque versi, versetti del Corano. E quindi sì, ecco, le donne sono state l'aspetto che mi ha colpito di più e sono abbastanza rilevanti in questo libro. E anche qui non ho inventato niente, ho raccontato quello che ho visto. Anche la storia della sorellastra del protagonista? Sì, sì, che poi fa un matrimonio difficile, insomma, ed è costretta ad andare nella Cecenia vera e propria e poi torna. Ci sono, diciamo, diverse storie femminili che si incrociano perché io ho visto questa grande forza, mi ha colpito questa grande forza delle donne anche nel resistere alla penetrazione dell'Islam radicale. Che in un certo senso sono le depositarie della tradizione e quindi riescono a tramandarla, ci provano e a resistere. Racconto questa scena, che è una scena che non ho visto, una scena che mi è stata raccontata, questa donna che allontana il salafita di turno, il fondamentalista di turno che vuole entrare in casa sua e far sposare la figlia ancora giovane, l'allontana con le ciabatte. Può far ridere nell'Islam l'utilizzo della ciabatta della scarpa, agitare la ciabatta della scarpa o lanciarla è un atto di disprezzo fortissimo contro un uomo, per di più contro un uomo che ha un ruolo nella... ecco, questo anche, questi possono, a noi possono aprire piccole cose, sono atti di coraggio e di una comunità che cerca di non morire. C'è una, come si cerca di non morire? C'è la presenza anche di un uomo d'affari dentro questo racconto, un qualcuno che ha il denaro per, ad esempio, fare costruire una nuova centrale, se non ricordo male, una nuova centrale di energia, alla quale però i contadini del posto si oppone, perché costruire una centrale di energia vuol dire sottrarre un terreno a un contadino vuol dire ucciderlo. E allora c'è un dialogo tra il protagonista e questo uomo navigato che viene, non lo so, da un occidente simbolico ricco e che dice in realtà se noi vogliamo dare una mano a queste persone è tramite questi investimenti che sicuramente li sradicano dalla loro realtà ma in qualche modo danno loro un futuro. E qui è la domanda delle domande. Sì, esatto. Allora la Georgia ha cercato di costruire delle centrali idroelettriche nel Panchisi, in realtà ne ha costruita già una e ne aveva in costruzione e in progetto un'altra. La comunità locale si è sempre opposta. Ci sono, se andate a vedere su internet, ci sono i video di queste sassaiole che puntualmente accadono quando gli operai cominciano a lavorare a queste centrali idroelettriche o comunque queste grandi opere infrastrutturali. Perché? Perché la comunità locale dice: ma voi ci avete privato di ogni diritto, adesso venite qua e costruite sulla nostra terra e non ci fate neanche lavorare, cioè gli operai vengono tutti da fuori, vengono tutti dalla Georgia, dal padre dello Stato, non sono dei nostri, a noi che cosa ci guadagniamo? Viceversa, ecco, da occidentale, da europeo, ti dici anche, è chiaro che se il governo centrale investe su quei territori, delle ricadute ci saranno anche su quei territori. È un modo forse non particolarmente democratico di rompere l'isolamento di quella valle portando infrastrutture, perché poi significa anche costruire delle strade, significa anche costruire delle infrastrutture, e portando, diciamo, se non un lavoro per i locali, comunque delle ricadute positive per i locali, rompendo quindi questo sistema del io non ho un futuro, mi tocca fare il mujahideen. Chiaramente la comunità locale però è molto resistente a questo, quindi c'è anche questa contraddizione, no? E io la racconto, non giudico, ero andato lì, ripeto, cercando qualcosa di sensazionale e ho trovato qualcosa di molto complicato e mi sono limitato a cercare di raccontarlo. E però è una delle contraddizioni in atto tra modernità e conservazione della tradizione o comunque dell'appartenenza alla terra, che è in fondo tutto ciò che gli resta. E forse il simbolo di questa duplice strada, di questo bivio, insomma, a cui si trova questa società, è il museo che esiste veramente e che è gestito da un amico d'infanzia di questo protagonista che si chiama Caso, se non dico male, ho pronunciato male Zicker prima, io ho detto Dicker, ma è Zicker. Questo è Caso. Ah, questo è caso, è proprio sì, lui. Solo che nel racconto è più giovane. Esatto, ecco. È il custode del museo, ed essere il custode di un museo tradizionale vuol dire, probabilmente, vista la civiltà che la contraddistingue, anche fondare una sorta di tradizione, perché chi si prende la briga di catalogare quello che è quotidianità? Lui, probabilmente perché su questo confine di cui si è reso conto che sta sparendo il suo mondo antico, ha deciso forse di mettere non una diga, ma fermare un po' il tempo e raccogliere, non so, il velo di una sposa o... Sì, e allora in questo museo c'è un po' di tutto. Allora, chiamarlo museo è una parola grossa, è grande come questa stanza. In un casotto di cemento armato, cioè non immaginatevi, vicino alla stazione di polizia, probabilmente concesso dalla polizia locale che non se ne faceva niente. E lì dentro il personaggio reale, cioè questo signore che è qui fotografato, ha realizzato questo museo che raccoglie abiti tradizionali, copricapi, spade, cioè i segni del glorioso passato dei Kist e dei Ceceni. E c'è questo dialogo nel racconto dove il personaggio del racconto, che è costruito su personaggio reale, appunto realizza questo museo, e il protagonista senza nome lo ritrova, erano amici di infanzia, e c'è questo dialogo in cui sostanzialmente si dice: ma cosa te ne fai di questo museo? No? E allora dice: vabbè, per conservare, ricordo. Ma nei musei si conservano le cose morte. Quindi è come se, in un certo senso, caso certificasse la fine della cultura e della tradizione del Kist, del Panchisi, che è un po' l'impressione che ho avuto io, cioè di una comunità destinata a perire, ecco, senza, salvo miracoli. La situazione dell'interno Panchise, prima hai fatto vedere la montagna delle lingue, che è una cosa meravigliosa, forse è la zona con maggiore densità, biodiversità linguistica, diciamo, al mondo. Sì, guarda, è impressionante, non ho tempo di raccontarvelo, un posto impressionante. C'è una comunità ebraica che però non sono ebrei israeliani, cioè israeliti di Palestina, sono una comunità ebraica di origine persiana, l'ebraismo era diffuso anche in Persia, di origine persiana, che si sono progressivamente allontanati dal centro della Persia, perché non ci puoi stare da ebreo in Persia, un paese musulmano, quindi ti emargini da solo. E qual è il posto migliore dove andarsi a rifugiare? Le montagne del Caucaso, lì non verrà mai nessuno a romperci le scatole, no? Poi cosa succede? Che la Persia, con un trattato nell'Ottocento, cede dei territori alla Russia, insomma questi si ritrovano nel Caucaso russo, sono ebrei, parlano però una lingua che è un pasticcio, perché è una specie di ebraico antico, quello che gli ebrei di Israele usano a scopo liturgico, loro lo parlano, ma è mischiato con le lingue caucasiche locali. È una cosa unica. Sì, sì, e si parla di poche migliaia di persone, cioè sono gruppi, sono comunità ridotte nel numero, e quindi questo equilibrio è delicatissimo. Per questo basta, adesso nel caso del Panchisi, no? Una grande cataclisma come le guerre cecene per stravolgere questo quadro. Ma ci sono, vi faccio vedere questo, poi perdonatemi, io non voglio tediarvi, siete stati fin troppo gentili a venire qui a ascoltare me, ma vi faccio vedere questo, perché questo, ecco, questo è un'altra cosa. Gli afro-abkhazi, no, sì, sono scomparsi negli anni 70 del Novecento, non ce ne sono più. Chi sono? Gli studiosi ci hanno messo un po' a capirlo. Sono schiavi africani portati lì dai turchi ottomani, quando i turchi ottomani controllavano le coste del Mar Nero e quindi anche l'Abkhazia, che è un pezzetto di Georgia, che però è a ridosso del Mar Nero, e quindi erano lì. E sono rimasti lì per generazioni, per 200 anni. E questo è un costume tradizionale, in questo caso è un costume tradizionale non ceceno, ma adesso non, francamente non saprei collocarlo, però comunque col tipico copricapo dei guerrieri caucasici con la cartucciera. Come vedete dai tratti somatici non stiamo parlando di un caucasico, ma sono, sì, diciamo, allora le popolazioni del Caucaso meridionale, quindi a sud del grande Caucaso, tendono ad avere costumi tradizionali molto simili, perché poi si sono diciamo, incontrati e scontrati molte volte, quindi tendenzialmente hanno questi grossi copricapi di pelo, qualcuno più o meno più o meno peli, più o meno bianchi o neri a seconda, più alti o più bassi, però sempre quello. Queste lunghe tuniche, ovviamente tenute da cartucciere, no? La spada, ecco, poi può cambiare il colore, può cambiare un po' la foggia, ma sostanzialmente sempre quello. Oppure ci sono questi nel Caucaso, no, non nel Panchigi, parlo del Caucaso in generale. Questi sono calmucchi. I calmucchi, allora, sono una popolazione di origine mongolica. Cosa ci fa lì? Lo ricordate Genghis Khan? Sì. Ecco, Genghis Khan, vabbè, a un certo punto muore, il suo enorme impero viene diviso, i figli, i nipoti fanno dei canati. A un certo punto vengono sconfitti. I russi piano piano li sconfiggono. E dove si scappa? Nel Caucaso. Ci sono le valli piccoline, ci mettiamo lì e andiamo avanti a portare avanti la nostra cultura. Sono buddisti. Questo è un tempio buddista elista ed è lì, è in Caucaso, ok? Quindi ecco, il Caucaso è un grande guazzabuglio, c'è veramente di tutto ed è un posto estremamente affascinante da conoscere, viaggiare, approfondire. C'è un libro molto bello di un reporter polacco che si chiama Gorecki, che è Pianeta Caucaso, che è una serie di piccoli reportage, non vi dà un inquadramento storico. Però non so se avete mai sentito parlare di Kapuscinski. Ok, Gorecki è della scuola di Kapuscinski. E fa questo bellissimo edito Mondadori, non mi ricordo quale Mondadori, insomma, quelli grigi, in Italia, è una bellissima serie di reportage da questo mondo variegato, con storie personali. Non è un saggio, no? Una serie di reportage, di racconti molto interessanti, da un posto che, ecco, ha un po' di tutto, come potete vedere. Ci sono, per chi di voi è appassionato di storia si ricorda gli Alani, ci sono dei popoli citati da Erodoto che sono ancora lì, okay, ecco, insomma, per capirci. Senti Matteo, tu fai anche a beneficio di noi una cronologia degli eventi storici. Allora, io guardo la prima data che tu citi, è il 1991, però il 1991 è presente, cioè non è lontano. Però la cronologia delle guerre che si susseguono dal 91 ad oggi è impressionante. Sì. E qui vederle citate uno a fianco all'altro, si vede come c'è un filo che unisce per l'appunto Beslan, Grozny, la Cecenia. Sono tutte cose che nella mia mente sono mescolate in uno shakeramento confuso, ma che qui hanno una sequenza e che hanno una loro logica. Vorrei che magari ce la raccontassi tu, questa breve cronologia di queste guerre, che evidentemente non sono scollegate tra di loro, allora, hanno dei punti di contatto. No, non sono scollegate, perché sono tutte ascrivibili a quel cataclisma che è stata la dissoluzione sovietica. La dissoluzione sovietica apre il vaso di Pandora dei nazionalismi e dei micronazionalismi, o comunque offre a politici rampanti e senza scrupoli la possibilità di usare rivendicazioni etniche come legittimazione, e quindi ecco, io sono il vostro capo perché io sono di voi, e quegli altri che stanno un po' più vicino non sono di noi, ecco, facciamoli diventare come noi, quindi processi di acculturazione forzata, guerre. E in Georgia, per esempio, nessuno lo sa, c'è stata una guerra civile che è durata 2 anni, dal 91 al 93. Dentro questa guerra civile si inseriscono e si collegano altri conflitti che sono catene, sono anelli, chiedo scusa, di una catena che porta fino alla guerra del 2008, in cui Russia e la Georgia, c'è questo conflitto che porta quindi poi al fatto che la Russia stacca dalla Georgia due territori che in qualche modo rivendica come propri. Copione già visto, non è niente di nuovo di questi tempi. La Georgia è stata un po' la prova generale di quello che oggi sta accadendo in Ucraina. Ecco. Così come c'è il conflitto del Nagorno-Karabakh tra armeni e azeri, e poi c'è stato il costante tentativo da parte delle popolazioni caucasiche di costituire questo emirato del Caucaso, quindi unire tutti i musulmani del Caucaso in un unico grande stato, non fosse che tutti i musulmani del Caucaso la pensano tutti in un modo diverso, e quindi è praticamente impossibile. Però il terrorismo ha causato una serie di contraccolpi terrificanti anche sulla popolazione locale, nonché ha legittimato l'intervento russo armato sulla regione. E potremmo fare, per avere un termine di paragone, un parallelismo tra quello che è successo, che è l'ex Jugoslavia, che è stata l'ex Jugoslavia, dove comunque c'erano religioni diverse, declinazioni della stessa religione in un modo diverso, e infatti si usa spesso il termine balcanizzazione anche per il Caucaso, di questa situazione, un po' simile in scala ridotta a quello che succede in Caucaso. Sì, ma in scala decisamente ridotta. Se noi consideriamo che l'ex Jugoslavia ha una profonda unità etnica, sono lo stesso popolo, slavi del sud, parlano la stessa lingua, con delle piccole varianti dialettali, stoicavo, iecavo, ma sono tutte varianti dialettali della stessa lingua, che poi viene codificata come serbo-croato, adesso ovviamente non esiste più il serbo-croato, guai, ma, insomma, quindi stessa lingua, stesso popolo, a eccezione degli albanesi del Kosovo, che riescono a fare una guerra terrificante, fratricida, motivata da ragioni nazionali, ma anche da ragioni economiche delle classi dirigenti. Ecco, il Caucaso, cioè nel Caucaso non c'è un popolo, ce n'è una quantità impressionante, e quindi quel grado di diversità può essere più facilmente utilizzato da politici senza scrupoli per avviare conflitti, tensioni, che poi magari possono diventare guerre. Io ci tengo sempre a sottolineare questo, non sono i popoli. I popoli cascano come delle pere dentro la trappola, ma non parte quasi mai da loro. Pensate al contesto jugoslavo, che probabilmente conoscete meglio. Il livello di persone che non erano bosniache musulmane, non erano croate cattoliche, non erano serbe ortodosse, perché erano tutto, e quindi erano niente, perché avevano la mamma musulmana, il papà, non interessava a nessuno questo, improvvisamente diventa importante. E diventa importante, qui siamo nella patria, nella casa di Alexander Langer, siamo Bolzano, diventa importante erigere steccati etnici, noi siamo noi, voi siete voi, irriducibilmente diversi, nemici da secoli. Ecco, tutto questo purtroppo viene anche creduto in certi momenti, altrimenti non si finirebbe dove si è finiti. E nel Caucaso, in un certo senso, in modo molto più complicato e a volte più brutale, è successa la stessa cosa. Nel libro c'è anche la storia di una, ho parlato prima della questione del lavoro, no? Che non venivano dati i documenti, di una ragazza, Nura, se non mi ricordo male, che aveva lavorato a Tbilisi, nella città più importante, poi però ha deciso di tornare indietro. È romanzata questa cosa, è vera? Decide di gestire una piccola pensioncina, esatto, guest house, appunto, per fare un po' di soldi per sé, ma soprattutto per creare quello che noi chiamiamo indotto, insomma, turistico in questa zona. Sì, sì, è assolutamente vero. E lei è riuscita negli anni a fare di questa sua guest house, di questa sua piccola pensioncina, un luogo dove però poi arrivano studiosi, studenti dall'Europa, che vanno lì e cercano di capire che posto strano è il Panchisi, e di studiare dal punto di vista di solito antropologico. Però questo porta un interesse diverso verso la valle. Non si va più nella valle, a parte che non ci va nessuno, ma chi ci va? Non ci va per cercare il mostro, il salafita da mettere in prima pagina. Mi ricordo ancora un articolo del Washington Post, La valle dei Mujahideen, titolo bellissimo, funziona perfettamente, però è un titolo che dà un'impronta negativa, no? Lei fa in modo che si vada nel Panchisi per cercare di capire quello che resta, o che era, io sono un po' pessimista, insomma, che resta di quella comunità che non si riconosce, e questo è il punto, non si riconosce nella violenza del radicalismo religioso. E certo, il Mujahideen, questo è importante anche questo, perché noi associamo il Mujahideen al cinema, alla guerra in Afghanistan. Questi stessi Mujahideen andavano in Afghanistan a combattere contro l'impero sovietico. Sì. Sì, sì, quindi andava. Apriamo un'altra pagina che teniamo ad essere dissociata, invece è legata ancora. E poi da lì arrivano, ti faccio vedere la faccia di un signore, se la trovo, non so se lo trovo. Queste foto sono pazzesche, con bambini con fucili in mano, cioè quella è anche un po'. Questo signore qua, questo signore qua è uno dei capi dell'ISIS in Siria, è morto, gli americani lo hanno ucciso con un missile telecomandato, gli hanno agganciato il cellulare, a un certo punto l'hanno fatto saltare per aria. E questo signore qua, il suo nome di battaglia, il suo nome da convertito è Omar al-Shishani, dove Shishani è ceceno, Omar il ceceno, e arrivava, come vi spiegavo prima, proprio da quella valle. La cosa interessante è che lui è pure ortodosso di nascita, cioè suo padre era, che ho incontrato, era un ufficiale dell'Armata Rossa in pensione, laico, georgiano, diciamo comunque di tradizione ortodossa. Lui nasce da questa famiglia, ma casa sua è una delle quattro case di georgiani che ci sono all'imbocco della valle, non proprio dentro, all'imbocco della valle. Lui entra in contatto con questo mondo, ma quello che lo attrae e che lo trasforma, lo fa diventare un eminente guerriero e terrorista, non è l'aspetto tradizionale dell'Islam, ma è l'aspetto radicale. Lui si radicalizza perché, come vi ho spiegato, arrivano un mucchio di soldi e conviene anche molto radicalizzarsi, e abbraccia questa battaglia. Prego. E c'è un personaggio che non ho citato, che però nel libro compare, che è l'emiro Ibn al-Khattab. L'emiro Ibn al-Khattab, se andate a cercare su internet, ha una fedina penale lunga così, è uno degli emiri sauditi che hanno finanziato la resistenza dei mujahideen in Afghanistan, prima in funzione antisovietica, poi in funzione antiamericana, e che ha convogliato le sue risorse sul Caucaso, che è subito lì, subito prossimo, per realizzare questa idea di emirato del Caucaso, e comunque per esportare, perché questo è il punto, c'è chi esporta la democrazia e c'è chi esporta la jihad. Ecco, per esportare la jihad e fare del Caucaso un fronte dell'estremismo islamico contro un occidente, che però è tutto occidente, i russi sono occidente, eccetera eccetera, insomma, da questo punto di vista così raffinato. E quindi ecco, i soldi arrivano da lì, ma purtroppo capire quanti è impossibile, naturalmente si tratta di traffici completamente illeciti. I soldi arrivavano anche dal traffico degli oppiacei. In Afghanistan è uno dei centri mondiali di produzione di gas, ovviamente, di oppiacei, che poi arrivano in Europa tramite i Balcani. Per anni i Balcani, i boss dei Balcani, i politici dei Balcani sono arricchiti col traffico di stupefacenti che arrivavano dall'Afghanistan. Le guerre in Jugoslavia non si possono disgiungere da questo, cioè ci sono... comunque, e sono molti, molti miliardi di dollari che sono stati investiti in queste imprese criminali. Vorrei che ci parlasse anche della vigna, del vino. Qui c'è un capitoletto dedicato alla vigna e al vino. Sì. La Georgia, lo sappiamo che è una grande, c'è vicino all'Armenia, altro che dice che è nato lì il vino, però non a caso c'è un capitoletto dedicato al vino. Sì, allora, in Georgia si coltiva la vite, e c'è chi dice che Georgia, l'Armenia, ma insomma il Caucaso sia il luogo dove più anticamente si è coltivata la vite. In Georgia fanno anche un ottimo vino. Tutto il vino che trovate in Russia è georgiano, non trovate vino italiano, francese, russo, trovate vino georgiano, è anche molto buono. E il personaggio, quando fugge, lascia la valle, come primo impiego, siccome in Georgia siamo, come primo impiego trova quello di lavorante presso queste vigne. La verità vera è che io sono piemontese. Io sono nato in collina, ho vissuto in collina, e la vigna è, fatemela dire così, insomma, siamo tra di noi, è un luogo anche simbolico, non è soltanto un paesaggio, no? E quindi è qualcosa che io ho cercato di così raccontare di mio e di personale, mettendolo in una storia dove sembra non c'entrare niente. In realtà ci sono davvero le vigne, quindi è verosimile quello che ho raccontato, e per questo ecco c'è questo aspetto della vigna in realtà. Sì. Questo non l'avevo sospettato, no, avrei dovuto pensare anche ancora più alla geografia tua in questo caso. Però ce lo racconti il vino georgiano come viene fatto, no? Allora, il vino georgiano viene fatto, praticamente c'è tutta... Il mosto viene conservato dentro delle anfore di terracotta che vengono sotterrate, si chiamano kveri, e c'è tutta una cerimonia, poi c'è una grossa festa del vino legata a questa tradizione di seppellire non hanno le cantine, ecco, non conservano in cantina, conservano sottoterra. Ed è, pare, un uso che risale a molti secoli fa, ecco, che effettivamente si facesse così in antichità. Poi io non sono uno storico del vino, per cui da qui mi fermo. Ma io so solo che queste anfore vengono date in dote alle spose, sì, assegnate. Sì, sì, sì, sono ovviamente sono un bene, ecco, sono un bene. Poi non tutta la Georgia è coltivabile a vite, ci sono delle regioni specifiche, una è proprio vicina al Panchisi, è la regione di Signaghi, che ha paesaggi collinari dolcissimi, un posto bellissimo, ed è appunto... Insomma, Georgia è un bel paese, strano, un po' difficile da girare, ma un bel paese, lo consiglio. Il vino georgiano è l'ospite d'onore a Merano. Al Wine Festival, che apre tra 10 giorni. Ah, non so dove andarlo a bere. Il vino georgiano è l'ospite d'onore. Grazie a tutti. Sì, sì. Ma perché noi ci siamo stati, Georgia, Mania, per cui molte delle cose che lei ci ha raccontato, siamo stati nella valle in cui lei... Del Panchisi? Vicino a Panchisi. Benissimo. Per delle cose che allora, come si arriva in Georgia? Descrivici il percorso. Ma in Georgia si arriva con l'aereo. Sì, dove parti e dove atterri Tbilisi direttamente. Da lì per raggiungere la valle occorre prendere dei mezzi pubblici, e non pensate, i signori lo sanno, non pensate all'autobus di linea, ecco, si chiamano marschrutke, sono dei pulmini sgangherati il più delle volte, che penso siano dei residuati sovietici ancora, o comunque cose di questo tipo, ma oppure sono più dignitosamente dei furgoncini Iveco, nei quali appunto che ti portano nelle varie località, almeno io ho sempre usato quelli, anche perché non ho mai fatto tratti lunghi, e per arrivare nella valle ti lasciano ad Akhmeta, che è una piccola città dove non c'è niente. La cosa più bella di Akhmeta è il distributore di benzina. E da Akhmeta poi, per andare nella valle, devi prendere un mezzo, un taxi. Ecco. I taxi ci sono dei taxi che fanno su e giù, e delle Mercedes sgangherate con fuori di proiettile, sono queste cose qua. Perché fuori di proiettile? Non perché abitualmente sparino i taxi, ecco, ma perché comunque... lo avete notato anche nella foto che vi ho fatto vedere, sono tutti armati, è anche un po' una tradizione, nel Panchisi per festeggiare un matrimonio spari per aria, okay? Quindi, cioè, le pistole ci sono, quindi non è, insomma, è una nota di colore, però dà un po' l'idea della situazione, e quindi niente, arrivi lì con un taxi e poi speri di trovarne un altro dopo qualche giorno, quando decidi di tornare indietro, che ti riporta indietro. Ed è vero che bisogna spegnere l'autoradio con la musica? Sì, sì, la spengono, sì. Sì, questa cosa mi ha colpito. Tu, c'è una specie di confine invisibile, tu quando entri in Panchisi, la musica è vietata in Panchisi, ovviamente, perché la musica è blasfema. Quindi tu arrivi, il tassista arriva, che sia della valle, di solito non lo è, comunque spegne la musica. Poi quando esci dalla valle, lui la riaccende. A me questa cosa ha colpito, me ne sono accorto soprattutto, cioè il collegamento l'ho fatto quando siamo usciti. La macchina si è accesa, tac. C'è una curva, a un certo punto c'è un posto invisibile, ma che loro sanno, dove il Panchisi finisce, e quindi, come dire, la giurisdizione dei Salafiti non... è vietato ascoltare la musica anche in casa, non si può ascoltare la musica. Beh, probabilmente, allora, ci sono molti modi per ovviamente aggirare i divieti, e, ad esempio alla guest house la musica c'è, è una forma di ribellione, no? Di resistenza, quella di ascoltare la musica, ma non si può, soltanto ovviamente le preghiere salmodiate, quelle sì, ma se no... Senti, per chiudere anche questa chiacchierata veramente molto interessante, all'inizio hai detto che forse proprio perché così marginale rispetto all'Europa, lì si è conservata tutta questa biodiversità. Che legame c'è allora tra la diversità di cui noi europei andiamo anche molto fieri, no? Del fatto che ci sono molte lingue, si fa 100 chilometri attraversi culture, tradizioni, atteggiamenti molto diversi, all'Europa di oggi, quel Caucaso lì, che è forse la diversità europea all'ennesima potenza. Cioè, mi chiedi che differenza c'è? Sì, che relazione c'è? Che cosa insegna l'Europa di oggi nostra, che è unita, che è un'Unione Europea, la multiculturalità del Caucaso? che in fondo è sostanzialmente non riconosciuta da nessuno, ma esiste di fatto. Sì, allora ritornavo un attimo alla mappa, visto che parliamo di diversità, tanto per far vedere quel patchwork di colori che questa è una delle due, la meno dettagliata, questa è più dettagliata, ma insomma rendono tutte e due l'idea. E che cosa ci insegna? Mi fa una domanda difficilissima, sì, non mi sono mai posto questa domanda. Io sono affascinato dalla diversità culturale, e sono affascinato dalla diversità culturale tanto più mi accorgo che non c'è diversità. Cioè che tutte le espressioni di diversità che ci sono hanno un fondamento molto comune. Adesso il Caucaso è un pochino più complicato, ma una cosa che cerco sempre di insegnare ai miei studenti è: i miei studenti studiano il tedesco, i miei studenti studiano l'italiano, guardate che sono due lingue cugine, non sono lingue lontanissime tra di loro, culture che non si possono comprendere. E di solito parto dall'elemento linguistico per individuare le parole simili con la stessa radice, dopodiché facciamo un lavoro di ricostruzione delle varie lingue europee e ci accorgiamo che sono molto simili tra di loro. Perché? Perché siamo tutti parenti, perché derivano tutti dalla stessa lingua e quindi deriviamo tutti dallo stesso popolo originario che parlava questa lingua che poi si è diversificata. Allora, a me piace la diversità perché la diversità mi ha insegnato l'unità, ecco, mi ha insegnato, posso dirla in un modo un po' televisivo, mi ha insegnato l'idea che siamo tutti fratelli. Adesso detta così sembra un po' buttata lì, no? Però siamo, cioè, che le comunità e le culture umane sono strettamente collegate tra di loro. Quando si mette l'accento sugli elementi di diversità, ecco che si creano ovviamente i conflitti. E se riuscissimo a mettere l'accento sugli elementi di comunione, riconosceremmo nell'altro noi stessi. Non so se ti ho risposto. Come no? Basta, è una sensazione che bisogna dare. Beh, grazie. Grazie. Grazie, Marcello. Grazie a voi. Leggetelo perché è veramente un viaggio sorprendente, almeno nel mio caso è stato così. Volevo fare una cosa. Certo. Sì, sì, sì. Io vado in un altro posto che è dato a capo del mondo, il Ghana. Il Ghana, uno dice, vabbè, è uno stato. È uno stato che ha quattro lingue ufficiali, 85 gruppi etnici, ognuno con la propria lingua. Noi siamo stati in un villaggio, un gruppo di 250 persone, cioè hanno una loro lingua, ma c'è una loro, per cui ci sono queste, e loro convivono in maniera più o meno pacifica, però 85 lingue diverse, ma questo deve essere anche parte molto del colonialismo che ha tagliato, certo, con l'accetta, i confini, per cui gli stati sono nati. Però noi siamo stati in Georgia, la casa di Stalin è frequentatissima, il treno è tenuto, è un gioiellino, sì, sì, tenuto da Dio, cioè non è... sì, sì. Sì, c'è questa, sì, perché Stalin era georgiano, come sapete, a Gori c'è il museo, la casa museo, insomma, il museo di Stalin, cioè sì. Ma scusi, era georgiano o russo abitante? No, georgiano, ah. Cognome georgiano, proprio georgiano pure. E non è stato tenerissimo con, la valle del Panchese con i ceceni, insomma, no? Anzi, i ceceni... Insomma, cioè, i ceceni sono uno dei tanti popoli deportati durante il periodo sovietico, così come i tatari della Crimea, per esempio, insomma, tanti popoli minori che facevano parte del mondo sovietico sono stati deportati, portati in Asia centrale, morti durante i viaggi, le traversate, il freddo, la fame. Poi, dopo decenni, venivano perdonati, non si sa di quale colpa. La colpa dei ceceni era quella di essersi alleati con i nazisti. Allora Stalin li ha deportati tutti. Il bello è che però i nazisti in ceceni sono mai arrivati. Prendete una carta geografica qualsiasi dell'avanzata tedesca, non sono mai arrivati fino lì. Un paio di spedizioni alpinistiche, è vero, hanno scalato il monte Elbrus, che è il monte più alto d'Europa, se consideriamo il Caucaso Europa, ma erano alpinisti, cioè non c'è stata guerreggiata. No? Però c'era questa cosa per cui, ad esempio, c'era un'unità dell'esercito della Wehrmacht che era destinata al Caucaso, che si chiamava il corpo di spedizione Shamil. Ve l'avevo citato, non nome Shamil, eccetera. Qui, ecco, il nome Shamil torna in tanti modi. è vero che i tedeschi puntavano anche un po' sull'appoggio delle popolazioni locali, ma non ci sono mai arrivati. Stalin ha detto benissimo, collaborazionisti con il nazismo, tutti sui treni, hanno circondato i villaggi, circondavano i villaggi, tiravano via la gente, a forza, dal mattino alla sera, caricati sopra, tutti via. Ci sono ancora racconti così, nel libro qualcosa si accenna, la memoria della deportazione è una delle ragioni che hanno sicuramente radicato la voglia di opporsi ai russi. C'era un popolo, adesso non c'è più, in questo mosaico manca un popolo, i circassi, c'hanno dei nomi sti popoli, sembra Star Trek a volte, e questi popoli sono scomparsi. Il primo genocidio della storia moderna è quello dei russi ai danni di questi circassi, qualcuno è scappato in Turchia, si sono poi diciamo turanizzati, alla fine. E il Caucaso è così, insomma, tante storie anche tragiche da raccontare. I circassi che sono sopravvissuti vivono in Siria, in Palestina, ci sono, sì, in Giordania. È vero, ci sono circassi anche in Medio Oriente, sì, però ormai sono, cioè, ci sono, diciamo, fusi con la popolazione locale, hanno perso quelle caratteristiche, anche a livello familiare erano pochi, quindi hanno anche matrimoni, sono cominciati a essere, si è perso proprio l'elemento del gruppo etnico. Bene, io la ringrazio molto perché io ringrazio lei. Un viaggio in una realtà che sicuramente diciamo geograficamente piccola sembra, però ricca di popoli, ognuno attaccato all'altro, però rimangono comunque con dei distintivi particolari. E allora, quando ha parlato del combattente di padre ortodosso, mi è venuto in mente, poi ha collegato la cosa anche poi ha parlato del Piemonte, mi è venuto in mente, non so se lei è riuscito a sentire questo, o meglio, la traccia di questo personaggio, un padre missionario domenicano, Giambattista Boietti, toronese, certo, che nella seconda metà dell'Ottocento si è convertito all'Islam. Era insomma un personaggio molto particolare, quella che è riuscito per un periodo insomma a dare il filo da torcere sia agli ottomani che ai russi. Sì. E perfino ha controllato Georgia, Tbilisi, sì, e poi si è fatta chiamare l'Emir il Mansur, il Vittorioso. Esatto. Al-Mansur il Vittorioso. Di questo personaggio qua, che c'è poi il suo busto intorno a Milano, il quello castello non lo so. Sforzesco. Ok, non lo sapevo. Sì, sì. E questo personaggio qua, lei che insomma ha indagato un po'... Allora, io volevo dire, il prossimo libro lo faccio. Perché poi stato Poi ho scoperto che una slavista è una storica eccezionale, che è Silvia Vitale, l'ha già fatto, quindi leggete il suo, perché lei è più brava. C'è un libro, sì, un libricino su di lui, sì. Sì, non so, non è neanche tanto cibo, è un libro abbastanza, ma è, penso che sia fuori commercio da 20 anni. Sì, sì, sì. E Serena Vitale, appunto, ha fatto dei bellissimi libri su Majakovskij e... Lo sa, magari in qualche fondo ce l'abbiamo. Beh, se ce l'avete fatto il miracolo, perché è praticamente introvabile. Ma nel museo, non so, da qualche parte, in Georgia, in qualche archivio, c'è qualche documento, qualche... Non lo so. Non lo so perché non mi sono mai occupato poi. Lui poi è morto in esilio. Anzi, sa che di Boietti si dice che ce ne fossero due, che ci fosse addirittura un omonimo, quindi personaggi che si confondono. È una storia un po' intricata. Sì, sì, ma lui aveva anche, si dava molto... aveva acquisito anche diversi nominativi. Sì, sì. No, e appunto il Caucaso è un posto strano fatto di gente strana, con una storia strana, quindi anche un gesuita piemontese che va lì, si converte e diventa un capo. Sì, domenicano che partecipa. Domenicano. Sì, sì, sì, sì, sì, è vero, sì, è una storia incredibile. Ispira la librizzazione, no, cosa. Va bene. Sì, che nel senso che il mondo è piccolo. Sì, sì, il mondo è piccolo ed è complicato. Molto. Io ringrazio molto davvero Matteo per la ricchezza dei dettagli che ci ha portato, davvero, grazie molto.